Il punto di Stefano Folli. Tra poche ore, appena uscito dallo studio del Presidente della Repubblica, Matteo Renzi non sarà più il brillante giovanotto che sa come piacere a tutti, bensì un uomo incaricato di una missione quasi proibitiva. L'ambizione va bene, è la premessa, eppure l'ambizione da sola non basta a reggere la sfida. Tutti diranno che il problema di Renzi è Alfano, ma non è proprio così. La trattativa con i centristi appartiene al novero della cucina politica e si risolve pagando dei prezzi, offrendo dei ministeri. No, il vero problema di Renzi si chiama programma economico, misure per la crescita, riduzione del debito, sono gli scogli su cui si frantumano tutti i governi, ma stavolta dovrebbe essere diverso, vedremo. Cruciale sarà la scelta del ministro per l'economia, primo perché è il nostro biglietto da visita in Europa e poi perché il primo interlocutore di quel ministro è un altro italiano, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale. Può e forse deve essere un politico quel ministro, o almeno un uomo dotato di esperienza e di forte sensibilità politica.